Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sempre, le solite noiose informazioni che poi tanto noiose non sono perché servono. Allora, la prima è il nostro sito radio24.it, dove potete scaricare, tra le altre cose, comodamente, soprattutto in questo periodo, tutte le puntate di qualunque trasmissione, andare anche con un motore di ricerca a trovare quelle che magari vi interessano. Sotto il mio profilo, il profilo del conduttore, c'è anche il mio blog, lo conoscete, Guardie o Ladri. La seconda informazione è quella della nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it. Allora, mail che è stata raggiunta da una nostra radioascoltatrice laziale, Elisa Valeri, che ci fa presente un caso molto interessante. Noi in realtà ne abbiamo già parlato nel passato di questa vicenda che si chiama Seguimi, poi vedremo di che cosa si tratta, un servizio che offre Poste Italiane, e già all'epoca abbiamo avuto, diciamo così, come giustamente interlocutore proprio Poste Italiane, che questa volta, poi lo sentirete, hanno preferito non intervenire. Ed ecco quindi che io do il buongiorno alla nostra radioascoltatrice Elisa Valeri. Buongiorno Valeri. Buongiorno Roberto Galullo, sono qui. Grazie. Allora, buongiorno anche ad Antonio Longo, che è il presidente del Movimento di Difesa del Cittadino. Buongiorno Longo. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, io direi, cara Valeri, di partire dalla sua storia, che a un certo punto lei dice è cominciata una tragedia. Tragedia, come diceva a Roma, con due G, perché? Lo spieghi? Allora, io diciamo abito in Ariccia, centro storico, e davanti a casa mia abitava una signora anziana di 95 anni. Sì. Sono stata legata con questa signora anziana, diciamo, quasi tutta la vita, quindi mi ha conosciuto da quando sono nata. E è successo questo, che per motivi di salute i figli l'hanno portata in una casa di cura qui vicino, sì, vicino sempre nel territorio di Ariccia. E i figli mi hanno chiesto una cortesia, dice: guarda, svolgite tutte quelle pratiche burocratiche per chiudere l'acqua, per chiudere tutte quelle cosine, lasciando una casa che è necessario fare. Io dico: facciamo il seguimi, almeno la posta che arriverà a questa signora arriva a casa del figlio. Certo, automaticamente non cioè arrivava, diciamo così, con un percorso di deviazione, arrivava delle persone che lei aveva indicato. Esatto. Quindi mando un incaricato alla posta chiedendo che documenti erano necessari per fare questa pratica. La posta mi dà dei moduli, sono da riempire, c'è una delega. La signora purtroppo non aveva nemmeno la carta d'identità, quindi l'ho fatta fare le foto con la carta d'identità, mandando addirittura un vigile in questa casa di cura, tutte quelle attenzioni per far sì che la signora, certo, che anziana, fosse, come dire, assecondato questo desiderio, e anche il fatto che lei aveva preso questo impegno di dire: l'aiuto io, esatto. Anche perché il problema era: arriva una comunicazione dall'INPDAP, avendo la signora una pensione INPDAP, non riceve nulla, magari gli sospendono pure la pensione, giusto? Certo. Quindi ho fatto tutto, e alla posta fatto tutto dice no. Io personalmente mi sono recata lì, mi hanno detto no, lei con la delega non può fare nulla, anzi addirittura lei deve portare qui la persona anziana perché noi la vogliamo vedere. Ah, che bello, che bellezza. Quindi una persona di 95 anni che sicuramente non ha facilità dei movimenti, anziché semplificare si complica la vita. Allora io direi di fermarci qui un momento, signora Valeri, per sentire qual è la risposta che ci è stata data dalle Poste. Prego. Il problema segnalato dalla signora Valeri è stato risolto l'8 luglio. Ci scusiamo per il disguido con la cliente, che è stato determinato da un'imprecisa applicazione delle procedure. Effettuata una verifica, l'ufficio postale stesso ha contattato la cliente e ha accettato l'adesione al servizio da parte della persona delegata. È già previsto infatti che la richiesta del servizio Seguimi possa essere effettuata anche da una persona delegata. Inoltre, l'adesione a Seguimi, come anche quella a tutti gli altri servizi per il destinatario, può essere effettuata, oltre che nei 14.000 uffici postali, anche direttamente online sul sito www.poste.it. In caso di disguidi o per effettuare reclami, i clienti di Poste hanno a disposizione diversi canali. Possono chiamare il numero verde 803 160, compilare il form online su www.poste.it, presentati presso un qualsiasi ufficio postale, o scrivere alla casella postale 160 00144 Roma. Bene, questa è la risposta che ci ha dato Poste Italiane dopo che noi abbiamo contattato l'ufficio stampa, segnatamente nella persona di Pierpaolo. Cito: non capisco perché non siano voluti venire direttamente, ma comunque noi ne prendiamo atto. Però, signora Valeri, ha sentito, il caso è risolto. Io ringrazio Radio 24 perché è vero che la direttrice mi ha contattato personalmente. Abbiamo comunque risolto il problema e la cosa più spiacevole è che questa persona poi mi conosceva da più di 30 anni anche personalmente. Quindi si poteva pure se risolvere il caso con un pochettino di buon senso e un pochino meno di burocrazia, diciamo. Di burocrazia. Esatto. Allora, andiamo un momentino nella fase di commento e anche di valutazione più complessiva di questo. Longo, presidente appunto del Movimento di Difesa del Cittadino, come si inquadra questa storia? Come la valuta? Ma guardi, intanto mi lasci dire che, come normalmente si dice, un'azienda che non mette la propria faccia di fronte a un reclamo di un ascoltatore, di un'ascoltatrice, di un cittadino, di un suo utente, diciamo, fa sempre brutta figura. Affidarsi a un anonimo comunicato, diciamo, di risposta non va bene, tanto più che non so se le cose sono andate come io penso, ma forse solo dopo che voi li avete investiti nel reclamo. Sì, così di fatto è andata. Così, ecco, di fatto è andata. Quindi la cosa conferma quello che io sospettavo. Dopodiché, le stesse informazioni contenute nella risposta di Poste, come dire, peggiorano la situazione, perché allora tanto più il rifiuto, le obiezioni poste dall'ufficio postale rispetto alla mancata presenza della persona, peraltro ultra novantenne, sono davvero inaccettabili. Se io posso attivare il servizio seguimi addirittura via internet o con una telefonata al numero verde, non si capisce proprio perché abbiano richiesto la presenza. Certo, questo è molto corretto. Detto questo, Galullo, devo dire che no, approfitto dell'occasione per dire che questo servizio seguimi è oggetto di numerose lamentele. Io ne ho raccolte alcune da quando voi mi avete invitato alla trasmissione. Insomma, c'è gente che per mesi non ha ricevuto la posta nel nuovo indirizzo, gente che dice: l'ho ricevuta sì, magari dopo due mesi, ma mi hanno portato un pacco tutto insieme di vecchia posta, nuova posta, magari con qualche bolletta scaduta, oppure non mi hanno recapitato le raccomandate, certo, che sono tornate indietro. Insomma, certo, diciamo pure che è un servizio che lascia molto desiderare. Che lascia desiderare. Ma infatti noi, così come abbiamo fatto nel passato, quando abbiamo già parlato di questo servizio Seguimi, abbiamo avuto ospite proprio Poste Italiane, e questa sarebbe stata l'ennesima disponibilità che si offriva, perché questa, lo ripeto sempre, è una trasmissione che serve per capire e risolvere, quando ci riusciamo, i problemi. Sarebbe stata l'ennesima opportunità che si dava a Poste Italiane anche per spiegare e anche per capire dove eventualmente potevano o possono ancora esserci dei nodi in questo servizio. Longo, le chiedo questo: visto che noi, come lei sa, invitiamo a rotazione tutti i movimenti a difesa e a tutela dei cittadini, ci piace cambiare e sentirli un po' tutti, qual è un sito presso il quale i nostri radioascoltatori possono entrare in contatto con voi? Un numero di telefono, una sede? Si faccia un po' di pubblicità. Benissimo, allora io intanto la ringrazio. Noi ogni tanto siamo ospiti di Radio 24, certo, ci apprezziamo moltissimo proprio per questa funzione di informazione di servizio. Gli utenti, i cittadini, ci possono raggiungere mandandoci una mail all'indirizzo info@mdc.it, oppure chiamando al numero 06 488 1891, ripeto, 06 488 1891. Benissimo. Siamo aperti dal lunedì al venerdì tutti i giorni. E un sito non lo avete? Sì, www.mdc.it. Benissimo, semplicissimo. Quindi è il Movimento Difesa del Cittadino, www. www.mdc.it, molto semplice. Io ringrazio Antonio Longo per il suo intervento, ringrazio la nostra radioascoltatrice Elisa Valeri e come sempre dico a Poste Italiane o comunque chiunque altro contattato non voglia intervenire in trasmissione o si affidi a Notte Stampa, che i microfoni di Radio 24 di questa trasmissione sono sempre aperti per dialogare. Grazie a Valerio Rocchetti in regia, a Gloria Guerrera e a Valeria Coffaro in studio, e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.